Mix 24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia. Silvio Berlusconi, 77 anni, milanese, due mogli e cinque figli, ex presidente del Consiglio, ex cavaliere, è l'uomo che da 20 anni è al centro nel bene e nel male della politica italiana, condannato in via definitiva per l'affare Mediatred, deve scontare servizi sociali, 12 mesi di assistenza agli anziani nel centro di Cesano Boscone. Intanto è impegnato nel tentativo di salvare Forza Italia in una campagna elettorale complicata e limitata dall'impossibilità di muoversi liberamente per via delle sentenze che gli impone il rientro a casa entro le 23 e vari altri vincoli. Presidente Berlusconi, una campagna elettorale così inedita la stimola o la deprime? Né l'una né l'altra cosa. Perché? Sto lavorando per l'Italia. Senta, adesso dall'America però è arrivato un colpo di scena. L'ex ministro del Tesoro americano ha raccontato come al summit di Cannes nel 2011 ci sia stato un tentativo di golpe, dice lui, a guida tedesca contro di lei. Lei in che momento l'ha capito? Ma io l'ho sempre avuto chiaro e denuncio questi fatti da allora. Sì. E adesso le dico, voglio andare fino in fondo. Ecco, senta questo servizio del TG7 di Mentana del novembre del 2013, era molto prima di queste rivelazioni. Hans Werner Sinn, considerato dal Financial Times il migliore economista tedesco, nonché uno degli uomini più influenti del suo paese. Lo precisiamo perché le sue dichiarazioni danno dell'incredibile. Sinn, ad un convegno della Süddeutsche Zeitung, ha detto: Berlusconi, nel novembre del 2011, quando era premier, avviò trattative in sede europea per fare uscire l'Italia dall'euro. Avvalorando quindi quella tesi che vuole che Napolitano abbia chiesto a Berlusconi di farsi da parte su pressione dei poteri forti europei. Vago concetto che di solito include la Germania, la Francia, la Commissione e la Banca Centrale Europea. Una cosa è certa, quel che avvenne nell'autunno del 2011 è un capitolo poco chiaro della storia recente. Quindi, Presidente, in Germania se ne parlava? Se ne parlava anche in altri paesi, per esempio appunto in Inghilterra, per esempio in Spagna, se ne è parlato al G20 di Cannes il 2 o il 3 di novembre, dove i miei colleghi mi incontravano e mi dicevano: ma come mai la prossima settimana ci sarà Monti al tuo posto? Hai deciso tu di lasciare? Senta, Berlusconi però... Obama è stato chiaro e leale, così dice il ministro del Tesoro americano, l'ex. Ha detto Berlusconi aveva ragione. Lei l'ha risentito dopo, Obama? Su questo tema non l'ho risentito, ma il suo comportamento è stato sempre molto chiaro e leale nei miei confronti. Senta, ma in Italia chi erano i complici della Merkel in quel momento, se si può dire complici? Ma questo deve venire fuori dall'inchiesta che speriamo il Parlamento accetti di fare attraverso appunto una commissione d'inchiesta. Ma Tremonti era parte o no del golpe? Non credo, non credo. E Fini? E Fini nel 2010 sì, voleva far cadere la nostra far venire meno la nostra maggioranza ed avere lui dal capo dello Stato il mandato a costruire un nuovo esecutivo. E quindi fa risalire a quel momento la rottura in qualche modo? Anche prima. Senta, Napolitano però dice che lei invece si è dimesso di sua iniziativa e non c'è stato nessun golpe. Cosa risponde? Che non sono d'accordo con questa affermazione. Senta, adesso si voterà in Europa. Sembra sempre di più un voto pro o contro l'euro. È sempre l'ora di uscire dall'euro, secondo lei? No, io non l'ho mai pensato, ma per restare nell'euro occorre cambiare la politica monetaria europea. Mi spiego in un attimo. La BCE deve diventare una banca centrale come tutte le vere banche centrali. Cioè stampare moneta. Non solo, ma deve garantire i debiti dei paesi dell'euro. Deve immettere liquidità, come sta facendo la Federal Reserve, nell'economia americana e deve anche svalutare l'euro. Senta, ma intanto in Europa non si riesce a conciliare, nessuno ci riesce, rigore e sviluppo. È colpa delle banche? No, mi sembra, è colpa di tutti i vincoli che si sono voluti mettere ai vari governi. Senta, Presidente Berlusconi, l'Europa sembra impantanata su tutto. E in Ucraina Putin detta legge. Ha ragione Putin in Ucraina? Secondo me sì. E l'Europa e anche gli altri paesi si stanno comportando con molta leggerezza e sbagliando. Non vorrei che andando avanti di questo passo si ritornasse nella situazione della guerra fredda, quella guerra fredda che io ho l'orgoglio nel 2002 di avere fatto finire portando Putin a un consiglio della NATO 19+1. Senta, ma Putin la sua strategia la realizza? Andiamo verso un'Europa sempre più Putin dipendente, allora? Beh, Putin, la Federazione Russa è importante per l'Europa, è importante dal punto di vista politico, è importante per la fornitura di energia, avere certo. La Russia con l'Europa, la Russia con la NATO, la Russia con l'America è ciò che dobbiamo tutti assolutamente volere. Senta Presidente, lo sente il peso degli anni? Lo sente il peso degli anni? Le sembra che lo senta? No, ah. mi sento bene. Naturalmente ho gli anni che ho, ma devo dire che non ho avvertito delle differenze rispetto a quanto ne avevo qualcuno di meno. Senta, no, io glielo chiedo perché tutto il mondo invece ha visto la sua bella fotografia sul Sunday Times, nella quale non nascondeva il segno del tempo che passa. Adesso si accetta com'è, meglio, di più? Ma guardi che erano truccate quelle fotografie, sì. Io sono come lei mi vede al naturale. Senta, quindi è un passo avanti però nel rapporto con se stesso, immaginarsi truccato così. No, ma no. Non, guardi che io sono molto naturale, sì. non riesco ma a dire... Ma un po' di trucchetto, un pochino. Mi sottopongo a tutto, i trucchetti, come li richiama, a cui si sottopongono tutti quelli che come me vanno in televisione per questi spettacoli di cosiddetto approfondimento politico che ormai non piacciono più a nessuno. Senta, gliel'ho chiesto perché l'ex ministro Nunzia Di Girolamo, che adesso è nel nuovo centrodestra, però le vuol bene, così dice, ha detto Berlusconi accettandosi con quelle fotografie ci ha dato ancora una volta una lezione di strategia elettorale e di marketing politico. Ha ragione? No, non credo, io non ho mai fatto marketing politico, sono molto semplice in tutte le mie strategie. Insomma, la Di Girolamo c'ha ragione o no? No, no, non credo. Poi sul fatto che mi voglia molto bene, se mi volesse davvero molto bene, starebbe ancora qui con noi. Senta, comunque nel nuovo centrodestra non le vogliono tanto bene. Senta cosa ha detto Alfano. Silvio Berlusconi in questi anni si è circondato da troppi idioti inutili. Idioti inutili! Da troppi inutili idioti! Si è sentito tradito da Alfano? Ma io non uso questa parola. Che parola usa? Io, no, casomai al massimo arrivo a dire che non si sono resi conto di quello che hanno fatto, perché essendo tutti professionisti della politica, avrebbero dovuto conoscere la storia della politica italiana, e questa storia indica con chiarezza che al di là dei due partiti principali, vabbè, okay, delle cose non tutti gli altri partiti non arrivano, vabbè, mai al 5%. Quindi pensa che non ci arrivi. Ma davvero Alfano non aveva il quid, come ha detto lei? Ma io non l'ho mai detto, no, questo. No. Ma che cos'è il quid? Però lei di quid ogni tanto ne parla. Vuol dire che ce l'ha l'idea del quid. Bisogna chiederlo agli elettori. Ah, e Renzi qui ce l'ha? Aspettiamo l'esito delle elezioni per sapere se c'ha il quid Renzi? È esattamente così. Senta, ma lei cosa le piace di più nel frattempo di Renzi? Ma è simpatico, è un grande comunicatore, abbiamo trovato facilmente l'accordo sulle riforme. Ne parleremo delle che riforme. Noi avevamo già fatto ne parleremo. E che la sinistra ha abrogato uno sciagurato referendum. Senta, le ho chiesto cosa le piace di più, me l'ha detto. E di meno? Di Renzi? Cosa le piace di meno? Ma forse dovrebbe lavorare di più sui contenuti dei provvedimenti, delle decisioni. Vabbè, ecco, adesso è campagna elettorale. Sì, d'accordo. Benissimo. Va bene. Senta, consentiamoglielo. Senta, lei con Renzi ha fatto un patto per le riforme che sembra reggere anche nella foga elettorale. Reggerà, secondo lei? Reggerà se le riforme che ci verranno presentate saranno da noi considerate positive per gli italiani e per l'Italia. Ecco, ma il punto più fragile dell'accordo è la riforma del Senato, lo sanno tutti che si voterà per prima, la voterete? Se sarà un Senato che potrà funzionare, cosa cioè, che non è... condizioni? A quali condizioni? Guardi, scusi, dica semplicemente. Mi lasci rispondere soltanto sì. qui con due parole in più. Sì, va bene. Noi abbiamo trovato l'accordo con Renzi sul fatto che il Senato non dovesse più approvare le leggi lasciate alla Camera dei Deputati, dovesse avere meno senatori, non dovesse dare la fiducia al governo. E queste sono le condizioni. E improvvisamente il Consiglio dei Ministri, senza chiederci nulla, inaudita altera parte, ha prodotto un disegno di legge complessivo D'accordo. Su tutte le forme. E il Senato, venuto fuori, una volta che la legge è arrivata appunto in Parlamento, è sembrato non soltanto a noi ma anche a molti senatori della sinistra un pasticcio inaccettabile. Ma insomma, quindi se dipende da lei, con Renzi fino in fondo oppure no? Perché stop and go. Non è stop and go. Le cose devono essere chiare. Noi abbiamo già fatto quelle riforme dell'assetto istituzionale che sono imprescindibili per rendere questo paese governabile. Va bene, dal insomma, se riuscite a trovare un nuovo accordo. Dal 1948 ad oggi nessuno è riuscito a farle. Perché c'erano sempre di mezzo i piccoli partiti. Lei spera che si faccia adesso. Io le avevo fatte. Se Renzi, guardando anche a quello che noi avevamo fatto, sente anche lui l'esigenza di dare all'Italia un assetto istituzionale che la renda governabile, lo farete. Fatto il quale, e soltanto fatto il quale, si potranno fare le riforme fondamentali della burocrazia, Presidente, del fisco, e la riforma della riforma, che è la riforma della giustizia. Va bene, parliamo della giustizia. Lo faremo e lo voteremo. Va bene, Presidente, parliamo della giustizia. Sulla giustizia, anzi, lei non parla perché non può. Ma il suo pensiero è molto noto a tutti. Senta questa dichiarazione però sorprendente del procuratore di Milano, Ilda Boccassini. Ci sono dei magistrati, dei pubblici ministeri che forse hanno utilizzato il proprio lavoro per altro. È inutile negarlo. Questo c'è stato e io mi auguro che non ci sarà più. Una seria autocritica anche all'interno della magistratura, che doveva fare e non l'ha fatto, dopo la morte di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Beh, Presidente, stupito da queste parole della Boccassini? No, perché la Boccassini è una donna intelligente. Senta, Presidente, la sorpresa, forse maggiore, almeno che ho avuto io, è quello che mi ha detto l'ingegner Carlo De Benedetti, che non è proprio un suo amico. Senta qua, De Benedetti, cosa ha detto? Ma al di là delle sentenze definitive, secondo lei c'è stato una qualche forma di accanimento giudiziario contro Berlusconi o no? Guardi, allora, c'è stato un accanimento di Berlusconi contro la giustizia. Questo è fuori discussione. E come tutte le azioni, creano anche delle reazioni. Per cui che ci possa essere stato nei confronti di Berlusconi un qualche modo anche eccessivo di rispondere da parte della magistratura è assolutamente nelle cose. Beh, Presidente, sorpreso, no? No, per una volta ha detto la verità, si è solo dimenticato di dire che i suoi giornali hanno sempre fatto da megafono e da sgabello a quell'accanimento. Però se lei non avesse esagerato e fatto sempre la vittima, forse il problema della giustizia si sarebbe risolto. Guardi, io... Vabbè, non ne può parlare, d'accordo. Sì, vabbè. Ma le ricordo che mi sono stati fatti contro 57 bene, processi, d'accordo, questo faccia lo lei. Va bene, faccio io. Senta, ma c'è qualcosa che si pente di aver detto in televisione in questi anni? No, non ho rimpianti, non ho rimorsi, nel bene e nel male sono sempre stato sincero. Senta, giustizia oggi vuol dire Expo e tangenti. Oggi come ieri una nuova Tangentopoli? No, non credo. Se ci sono degli episodi di scorrettezza, verranno colpiti e vanno colpiti con determinazione, ma sempre nel rispetto delle garanzie processuali. Senta, però, la Guardia di Finanza dice che il 70% degli appalti è truccati. Siamo un paese condannato alla corruzione? No, assolutamente. Se ci sono degli episodi, questi episodi vanno colpiti, ma soprattutto va semplificato il sistema delle procedure, che troppo spesso con questi passaggi burocratici favorisce chi agisce scorrettamente. Ma deve andare avanti l'Expo o no? Assolutamente sì. Ma la scelta di Renzi di mettere Cantone all'Expo è una scelta giusta? Non lo so perché non conosco questo signore. Senta, ma perché ogni volta che ci sono eventi speciali, e lei li conosce, c'è sempre subito la corruzione? Perché? Ma perché le mosche vanno al miele, e quindi però non bisogna cedere e accettare che ci siano le mosche. Senta, l'Expo in bilico, e i suoi capitani coraggiosi, però quelli dell'Alitalia, hanno gettato la spugna e arrivano gli arabi, un disastro insomma. C'è evidentemente un difetto nella gestione dell'Alitalia. Quando noi abbiamo vinto le elezioni nel 2008, sono stato al governo, dopo aver risolto in 58 giorni la tragedia dei rifiuti a Napoli e in Campania, mi sono interessato dell'Alitalia, che era già praticamente nelle mani dei francesi. Ho trovato 15 generosi imprenditori che hanno preso la parte di capitale. Le dico, però, se Ryanair con 61 milioni di passeggeri avvale di 6.000 collaboratori, come mai all'Italia con 21 milioni di passeggeri deve avere 14.000 collaboratori? Un problema di gestione e forse anche di difficoltà sindacali. Senta, Presidente Berlusconi, l'economia è in crisi nera, abbiamo visto i dati, sono spaventosi, dal 2008. Si pente di aver parlato di ristoranti pieni, di gente in viaggio, quando la crisi era già chiarissima? Non sono d'accordo con lei. La crisi allora forse stava cominciando, ma ho raccontato anche lì la verità di quello che avevo visto io. Ma si riconosce qualche errore in quel momento di eccesso di ottimismo? Devo dire la verità? Sì. No. Bene, no, sarebbe strano il contrario. Dopo tanti anni pensa che in politica si possa dire anche la verità ogni tanto? Io dico sempre la verità. Senta cosa dice a proposito di verità, che dice lei, un suo ex collaboratore licenziato, Urbano Cairo, ha detto: Berlusconi ha un rapporto sbarazzino con la verità, la sostituisce coi suoi desideri e finisce col credere alle sue stesse invenzioni. Beh, si riconosce? Io credo alle mie invenzioni, ai traguardi ambiziosi che mi pongo, non ci credono normalmente gli altri, che anzi fanno sempre delle ironie al riguardo. Devo dire che finora tutti i traguardi che mi sono dati sono riuscito a raggiungerlo. Quindi adesso mi do un traguardo, il più importante della mia vita, quello di garantire al mio paese democrazia, benessere e libertà. E sto costruendo un'operazione titanica per creare 12.000 comunità su tutto il territorio nazionale, cioè per trasformare la maggioranza moderata, che oggi nessuno discute sia la maggioranza numerica nel paese, in una maggioranza politica organizzata. Senta, a proposito di verità e di incubi, le pesa di più la condizione attuale di Dell'Utri o la richiesta dei 570 milioni di euro di sua moglie Veronica per il divorzio? Sono cose che mi addolorano, perché sono persone a cui ho voluto molto bene. Senta, Presidente Berlusconi, il suo amico del cuore, parlando di persone a cui vuole bene, Confalonieri, ha detto di essersi confessato di nuovo dopo 50 anni. L'ha colpito? No, si vede che prima non aveva peccati da confessare. Senta, le piace Papa Bergoglio? Mi piace molto, perché fa il Papa esattamente come l'avrei fatto io. Accidenti, è per quello, insomma, è bravo perché le assomiglia. Senta, ma adesso anche Grillo... No, io gliela metto in un'altra maniera. Me lo dica. Sono io che sono bravo perché assomiglio al Papa. Va bene. Tanto più o meno avete la stessa età, grosso modo. Senta, sì, ma io li porto meglio. Va bene. Presidente Berlusconi, adesso anche Grillo andrà da Vespa per la campagna elettorale. È geloso di Vespa? In che senso? No, che vada Grillo da Vespa. È un evento, eh? Beh, no, vediamo. Come, perché la prende? Perché, no, se l'aspettava, diciamo. No, la gente ha bisogno di capire chi è questo Grillo, che non è soltanto un urlatore, uno sfasciacarrozze. È un pericolo per l'Italia, perché è un aspirante dittatore. Ma secondo lei perché va da Vespa? Dopo aver teorizzato l'assenza? Credo perché vuole raggiungere anche il pubblico delle persone di una certa età, che sono la predominanza nel pubblico di Vespa. E quindi è solo perché adesso tutti si sono appunto accorti che l'Italia è il paese più vecchio del mondo e tutti vanno a parlare nei programmi seguiti dalle persone più anziane. Così. Questa può essere sua ipotesi. No, senta, tutti a fare promesse comunque agli anziani, ma con quali soldi se non ci sono? Ci sono. E dove sono? Sono per esempio nei 140 milioni di servizi e acquisti dello Stato su 800 miliardi, miliardi. Su 800 miliardi, che è il costo della nostra macchina statale, su quei 140 lì si trovano insomma i soldi. C'è molto da fare. Noi abbiamo un programma molto specifico che dovrebbe portarci alla possibilità di risparmiare il 2% all'anno sugli 800 miliardi, quindi 16 miliardi all'anno. E avremmo anche... Ma ne paghiamo 40 per il debito pubblico? Siamo sempre... No, ne paghiamo un po' di più. Sono 80, sì. 80 quando ce l'ho io, adesso sono aumentati, credo che siano verso i 90. Vabbè, quindi, è insomma, aumentato tutto. Di... Vorrei sottolineare che dal 2011, con il mio governo, tutti i fondamentali sono peggiorati. Senta, ma gli 80 euro di Renzi sono un aiuto davvero per rilanciare i consumi e l'industria oppure no, secondo lei? Assolutamente no. Sono una manovra elettorale. Cioè, lei dice uno spot elettorale e basta? Assolutamente. Sono stati dati senza equità, perché a chi guadagna 25.000 euro vengono dati 80 euro, se sarà vero, e a chi ne guadagna poco più di 8 ne vengono dati 27. Bisognava capovolgere a chi guadagnava di più i 27, a chi guadagnava di meno e ha più bisogno gli 80. Ma la cosa anche sbagliata è che per dare questa mancia elettorale ai dipendenti pubblici si sono fatte pagare di più le tasse sulla casa. Senta, e Presidente, sui risparmi alle famiglie e ai pensionati. Allora rifacciamo tutto il piano elettorale. Presidente Berlusconi, Vespa vuol dire televisione, vuol dire Rai. È d'accordo che 150 milioni di spende review chiesti dal governo alla Rai, come a tutte le altre società pubbliche? Io credo che con il budget totale della Rai sia una cosa assolutamente possibile. Senta, Presidente Berlusconi, parlando di Renzi, lei dice vuole fare tutto quello che volevo fare io, però io non ho potuto per colpa di Follini, di Fini, di Casini. Non è un po' facile metterla così, dopo tanti anni? Non è soltanto questo. La totalità di quello che io volevo fare non l'ho potuta fare. Primo, perché l'assetto istituzionale del paese non l'ha consentito a me e a nessun altro. Due, perché avevo degli alleati che mi hanno reso difficile. Tre, perché ho avuto un'opposizione non responsabile, la sinistra, ma un'opposizione che aveva come politica tanto peggio, tanto meglio. Quattro, la magistratura. E quindi siamo tornati all'origine. Sì, ci vorrà la legge elettorale. Se mi consenta, anche il fatto che il 90% della comunicazione della stampa è stata contro di me. Vabbè, insomma, lei non è che gli manca, ce n'ha parecchia, mi sembra tanta. Si è mai domandato se le televisioni del gruppo Mediaset, nel cui io non ho mai messo il naso, una volta, abbiano fatto qualche ciclo di trasmissione o anche solo una trasmissione contro qualcuno della sinistra? No, ma contro non lo so, questo io non la guardo tanto, devo dire, la guardo poco la televisione da quando mi hanno cacciato. Le posso assicurare che non c'è stata nessuna trasmissione. Ma quindi, però, la sinistra, allora, Follini, Casini, eccetera, ha sbagliato tutti i compagni di strada, diciamocelo. No, perché non li ho scelti io. Li ha trovati? Erano quelli che gli italiani consideravano degni di dare dei voti. Senta, ma allora, se Forza Italia, visto che in quel modo non si governa, e l'ha dimostrato, si è dimostrato, né lei né altri, No, mi faccia fare la domanda. 40 importanti interventi, sì, mi dica i tre, una università che non è certamente di destra ha detto che ho realizzato l'85% di quello che avevo promesso nel contratto con gli italiani. E quali sono le tre cose più importanti? Il mio governo ha fatto più di tutti i più di 50 governi precedenti messi insieme. Presidente, mi dica questo: se Forza Italia diventa il terzo partito alle europee, lei si ritira? Io penso che di nuovo sentirò di dover rispondere a quella responsabilità che 20 anni fa mi ha fatto abbandonare le mie imprese e scendere in campo. Senta, Presidente, nella politica. Mi dica più chiaro. Neanche se va sotto il 20% non si ritira? Ma guardi che il 20% è il risultato che abbiamo avuto alle elezioni di febbraio 2013. Ma allora sì o no? Io no, credo che dovrò andare avanti perché l'ho annunciato prima. Ho un grande progetto, quello bene, che voglio detto, consegnare questo. Alla me mia storia, alla storia del paese, di trasformare i moderati, che sono pressa poco il 65% degli italiani, che devono essere convinti a votare e organizzati. Perfetto, senta, e quando si voterà secondo lei per le politiche? Penso fra un anno e mezzo al massimo. Ah. Senta, ma parliamo di errori, ne abbiamo parlato un po', anche se da Fermina è stato un errore. No, come no? Lo mandare via. Aveva, pensavamo che avesse tutti i requisiti per poter essere un buon allenatore. Adesso, alla fine, dopo l'ultima partita di campionato, riuniremo il consiglio e, come abbiamo sempre fatto tutte le decisioni, prenderemo una decisione insieme. E io spero che, come ci è capitato tante volte, si possa prendere la buona decisione. Le dirò che non è neppure escluso che possa continuare Seedorf, sempre se con Seedorf riusciremo a trovare un accordo sul tipo di rapporto tra lui e la società. E la doppia, a proposito del rapporto con la società, la doppia guida al Milan di sua figlia Barbara con Adriano Galliani, a che esigenze risponde? All'esigenza dell'innovazione insieme alla esperienza di Galliani e quindi alla continuità. E sua figlia è l'innovazione. Sì, certamente. Senta, Presidente Berlusconi, le faccio un'ultima domanda. Lei spesso dice: voglio essere un padre della patria. Sì, ma di quale patria? Di una patria che garantisca a tutti i suoi cittadini benessere, democrazia e libertà, cosa che oggi assolutamente non è. Non c'è la libertà. Nessuno oggi può essere sicuro dei suoi diritti e neppure della sua libertà. Va bene. Grazie, Presidente. Grazie molto. Auguri. Grazie. Mix 24. 800 24 00 24, il numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Allora, Mario, un titolo, facciamo un titolo all'intervista di Berlusconi? Vuol fare il Papa. Vuol fare il Berlusconi Papa. Due punti, voglio fare il Papa. Fare il Papa, se facessi il Papa. È divertente. E tu, Pietrangelo? Invece io farei così, faccia lei. Cosa ha detto lui? Mi sono stati fatti contro 57 processi, virgola, faccia lei. Faccia lei. Faccia lei. Faccia lei. Se Enrico dalla Grecia dice: ma Berlusconi voce di messa, strategia elettorale, chissà, potrebbe essere. Ma a proposito della voce, avete notato la tipica dimesso, voce però, di chi ha appena fatto la pulizia dentale. Una voce d'orchestra. Perché sono una sirena, canto in sirenese. Ondeggia il pavimento nel mare, si stringono i cuori. Oggi in metropolitana capitava di tutto, sembra proprio. Sì, la metropolitana si è trasformata in un lungo serpentone, un dirigibile che ha conosciuto il mare. Infatti ondeggiava il pavimento del mare, si cantava in sirenese, c'era la foca barbuta sempre piaciuta, la sirena coi baffi, insomma, era tutto un trionfo marino. Mamma mia. E questa canzone ha un autore importante. E chi è? Louis Ferdinand Céline, Scandalo degli abissi. Chiamami. Pensa. Bolle Mario, bolle. Sulla metropolitana di Nuova Delhi abbiamo trovato il nuovo leader indiano. Questa è la notizia del giorno. Mi sembra che va male per i nostri Marò. Vediamo quali scuole di pensiero si dividono. Io sono un po' pessimista, altri autorevolissimi colleghi sono invece più ottimisti. Speriamo abbiano ragione loro, ovviamente. Però, insomma, Narendra Modi ha vinto le elezioni. Il BJP, il partito nazionalista, ha conquistato la maggioranza assoluta dei seggi. Sonia Gandhi ha perso, il partito del congresso ha messo la sconfitta. Guardate, si tratta di una svolta molto importante nell'assetto di un paese chiave. Perché? Per la crescita mondiale. Ma ha un programma di riforme molto liberali in economia. La borsa ha festeggiato con il record, il balzo più grosso dal 2009 ad oggi, ha fatto più 6,15%. La domanda, appunto, la domanda Marò, è per i Marò come andrà, vediamo, male, non lo so, non lo so. Io spero, guarda, speriamo, io la penso bene, come te, ma sai, no, non voglio, no, non voglio. Invece spero vada meglio per la crescita mondiale, perché l'India è chiave in questo caso. Salamini. Salamini, giusto appunto, Petroliniani, sì, siamo in zona Nerone, zona foto raccapricciante, una foto raccapricciante oggi sui giornali, quella di del sindaco Ignazio Marino al Colosseo, raccapricciante perché lì stava per fare tutta una giornata, una fiaccolata contro il fanatismo, il ricordo in quel luogo di martirio, sì. Però a pensarci bene... Giusto appunto stanotte, la notte dei musei, tutti aperti, e ad eccezione del Colosseo, dove non trova guardiani. Cinque. Ora col disastro, cinque guardiani, cinque, potrebbero benissimo essere lì. Vittorio Sgarbi si è detto disposto pure a pagarli lui, a pagare lui lo stipendio a questi cinque guardiani. E il sindaco, in questa foto raccapricciante, si presenta con la fascia tricolore davanti al Colosseo, a luci spente, e quindi quando si tratta di fare la gnagnera della solidarietà siamo tutti pronti, quando invece c'è da far svegliare queste meravigliose pietre, mai a questo punto io voglio dare la solidarietà ai leoni, ai gladiatori e al guardiano, giusto appunto il guardiano del pretorio. So Caio Gregorio er guardiano del pretorio. Del divismo prendi il caso. Non per fare il ficcanasso, ma i miei tempi, quando un tale gli riusciva bene o male, sia qualunque fosse il sesso, d'arrivare ad aver successo, per sto semplice motivo si faceva chiamare divo. Oggi nella seconda ora Marina Milone racconterà la storia di Claudio Villa. Un amore così grande, un amore così, tanto caldo dentro e fuori intorno a noi, un silenzio breve poi, la bocca tua si accende un'altra. Sono i Negramaro che cantano Un amore così grande, il brano scelto per accompagnare l'avventura della nostra nazionale mondiale in Brasile, ormai alle porte. La band salentina ha rivisitato appunto il grandissimo successo di Claudio Villa. Mix 24. Поздравляю вас 69-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Sempre Russia. Dai, questa è la victory parade, ma questa è una cosa meravigliosa sulla piazza rossa di Mosca. Va bene, a tutto gas, facciamo un breve riepilogo. Chi paga le rivoluzioni? Quello che ci chiediamo tutti i giorni. Allora, gli Stati Uniti hanno deciso di rovesciare il regime a Kiev. E va bene. Putin non la prende benissimo e la Crimea ritorna a casa, cioè alla Russia. Il capo della CIA nel frattempo va in gita a Kiev. Bella città. Poi a est e a sud i separatisti dicono: ma noi siamo russi, che cosa volete? Facciamo il referendum. A Kiev non ci stanno, fanno partire i carri armati. I democratici di Kiev, sostenuti da America e Europa, bruciano vive 41 persone a Odessa. Solo. Tutto va bene. Democratici. I referendum separatisti nel frattempo vincono. Oh, sempre nel frattempo e per caso, il figlio del vicepresidente americano Joe Biden, Hunter Biden, diventa consigliere di una società del gas in Ucraina. Ah! Per caso, per caso. UE e Stati Uniti impongono delle sanzioni irrisibili a Mosca. A questo punto Vladimir Putin manda il conto del gas. Signori, ci dovete 3,2 miliardi, perché noi vi abbiamo dato il gas finora gratis. E non l'avete pagato. Chi paga? Non c'è ancora risposta. Putin ha mandato una seconda lettera ai leader europei l'altro ieri, chiedendo all'Ucraina di pagare la bolletta. Domanda: chi paga? Secondo te? Noi. Esatto. Come sempre. Risposta esatta. Questa è la grande, il grande scenario internazionale messo in piedi dagli Stati Uniti in questa rivoluzione. Pensa a te. Beh, ci sono i nostri ospiti. Sì, non possono più fare a meno di voi, Dudu e Ajace Telamonio. Buongiorno, buongiorno, pronto, buongiorno. Allora andiamo subito, Dudu che è il più piccolino, il primo a parlare. Mario, hai una domanda per Dudu? Ciao Dudu, buongiorno. Dunque, chiedo scusa, adesso Papi era qui da noi, lui vuol chiamarlo così, io non mi azzarderei mai, per carità. commenti l'intervista, come è andata? Aveva, era pimpante, l'ho visto in forza, insomma. A differenza? Un minuto. No, scusa Dudu, io non ho capito niente, prima mi hai detto una cosa al telefono, un'altra, ripeti. Ah, grazie, grazie, grazie. Mi sta dicendo che Papi è stato bravissimo. E adesso, nelle ultime battute, com'è? Farà vedere i sorci verdi a... a Cretinetti, non ho capito chi sia Cretinetti. Poi... ah, grazie, grazie. Però è dispiaciuto perché Cesare Previti se n'è andato con Alfano. Questa è una cosa che a volte ancora un po' di mistero. Sarà sì. Vero? Era fuori dal... come? Dal guinzaglio magico. Grazie, adesso abbiamo Ayace. Ayace è tutto tuo. Ayace, Ayace, ma buongiorno. Cosa è capitato, Ayace carissimo, in Sicilia con Genovese? Che dice il tuo padrone? Terribile. Ah, grazie. Dice Ayace: io sarò cane, avrò anche i dentini, tra le zanne mi ritrovo i polpacci di chi? Ah, degli squagliacquazzine renziani. Ma il parlamentare grillino che scoppia di felicità davanti, com'è? Davanti a un uomo che va in galera, se io sono cane, lui che cos'è? Dobbiamo smetterla con... ecco, dice, la sinistra la deve smettere con le manette, se no poi inseguendo i grillini. Beh, hai sentito, anche Berlusconi ha detto che la Bucassini è una donna intelligente, diglielo. Ayace? Sì, però dice ci sono altri magistrati che sono ancora più intelligenti e vogliono fare il lavoro di D'Alema. Grazie! Grazie! Grazie! Grazie. Bolla! Allora. Voi direte, perché Michael Jackson? Perché Thriller? Insomma, siamo abbastanza cresciuti per ricordarci il video. C'erano chi? Gli zombie. E questa è bella, ci ha fatto ridere quando l'abbiamo vista due giorni fa. Però la voglio riprendere perché è divertente. Il Pentagono ha un piano per combattere gli zombie. Cari minori, cari ascoltatori, ne incontrerete molti durante il giorno. Solo che non sono zombie veri, sono zombie più veri di quelli veri. Però, dove vuoi arrivare? Voglio arrivare a una cosa divertente, cioè che i cosiddetti, si chiamano fictional scenarios, sono in realtà, celano dietro la finzione analisi molto raffinate, piani militari segreti, scambi di informazioni in codice e così via. Vi ricordate questo? Sentite qua. Vai! È in programma l'invasione del Medio Oriente. Perché sei impazzito? Sono io il pazzo. Non abbiamo un piano. Assolutamente no. Esperimenti, ecco tutto. Come un gioco. Noi ipotizziamo. Che accadrebbe? Quanti uomini servono? Quanto tempo occorre? C'è un mezzo più economico per rovesciare un regime? Sono I tre giorni del Condor, era un film strepitoso, Sidney Pollack, Robert Redford, ha dei passaggi meravigliosi, stupendi, si apre con il massacro di alcuni agenti della CIA che leggono, questo è il punto, leggere quello che è pubblicato, a volte trovi delle grandi verità. E intanto Buttafuoco ci ha lasciato perché va a Palermo a presentare il libro di Giuliano Ferrara. Viva Giuliano! A chi interessa, a Palermo andate a sentirlo. La nostra quota rosa oggi è in ritardo. Wow. Wow, Mario. Hai messo della musica buona, canzone, finalmente. Hai visto? L'ho messa perché ho notato una pioggia di libri tra gli scaffali delle librerie sul sesso, scritti tutti da donne. Per esempio, no? Luisella Costamagna con il libro Cosa pensano di noi si è sbattuta per indagare sulla vita sessuale degli uomini. Poi c'è Supermarket Porno di Sabrina Paravicini per chiudere in bellezza Siamo tutti puttane. Che non è quello che urlava tempo fa Giuliano Ferrara, ma il libro di Annalisa Chirico. Ma sarà la primavera? Oppure ho pensato, ma saranno i cambiamenti climatici che stanno facendo impazzire i nostri ormoni? Chiediamolo alla Catapano. Può darsi, può darsi. Intanto professore, buongiorno. Professore, dov'era il cano ieri sera? Prima mi faccia fare un annuncio perché poi non abbiamo più tempo. E a Claudio Villa, la sua carriera artistica, che Marina Milone racconta la storia della sua vita nella seconda ora. Dov'era il cano ieri sera? Allora, grande battaglia ieri sera attorno alle 23 tra un giornalismo d'assalto, duro, aggressivo, pieno di giovani, gli innocenti, e un giornalismo invece pacato, metaforico, quello di Edmondo Verselli nel suo libro più bello, Il più mancino dei tiri, in cui usa il calcio come metafora per leggere la politica italiana. E com'è andata? E il canone dov'era? Da tutte e due le parti? Allora, per me era da Verselli, ovviamente, però adesso vediamo un po' i risultati di ascolto, cosa ci diranno, ma i risultati di ascolto non ci dicono dov'era il canone. Secondo me Verselli era un bell'antidoto anche contro quel giornalismo che a me non piace tanto, perché invece leggere queste cose attraverso i numeri 10, l'incompiutezza dei numeri 10 è l'incompiutezza della sinistra, l'ingovernabilità dei fuoriclasse, l'ingovernabilità dell'Italia. Come serio oggi, mamma mia, sembra butta fuoco in fase poetica. Di numeri invece, non numeri 10, di numeri di audience avrà vinto sicuramente anno 1, però vabbè, vedremo, vediamo. Tra poco, tra 5 minuti usciranno i dati. Grazie.